Alle scarpe piene di pioggia, dal pomeriggio di ieri, quando i volti nelle vetrine sono andati in frantumi sulle bandiere. E il cielo ha fischiato. Hanno ucciso un compagno.